Benvenuti alla Revancia su Radio Wombat. Siamo qui in diretta dall'ultimo piano del Palazzo Maledetto. Come tutte le sere vi ricordo dove potete trovarci: sul sito wombat.noblogs.org oppure sul twitter.com/radiowombatfi o il facebook.com/radio-wombat-firenze oppure ci mandate una buon vecchia mail a posta@wombat.net. Stasera abbiamo come ospite Matteo. Ciao. Che saluta ciao. Calorosamente. Ciao ragazzi. Più calorosamente. No, meno calorosamente. Meno. Ciao. Ciao. è venuto a trovarci per parlarci del hardcore italiano di fine anni 90 e non solo. Mezzo fine, quello che è sfociato anche negli anni 2000, sì, primi anni 2000. E anche un po' di potere e violenza, no? O potere violento, come lo chiamavano alcuni all'epoca. Il potere violento? No, su un flyer c'è di un concerto c'è di tanti anni fa, c'era scritto Grobelar e sotto il genere potere violento. Eravate potere violento. Molto. Era il potere della violenza. Il potere della violenza. E niente, quindi ci siamo trovati qui stasera per parlare di questo argomento delicato, quale grindate, le grindate, i berci. E quindi parliamo un po', facciamo così, iniziamo subito dicendo qual è il primo pezzo che mettiamo, di quale gruppo è e che cosa abbiamo detto, che cosa cazzo mettiamo, aspetta, perché i nostri potenti mezzi tecnici, Cattiva Inclinazione. Vai, mettiamo Cattiva Inclinazione. Ok, parlaci un po' di Cattiva Inclinazione, che era un tuo gruppo dove te cantavi. Sì, il mio gruppo dove cantavo è attivo tra il 94 e il 90, boh, non mi ricordo, sai, 97 forse. E eravamo, diciamo, tutti della zona maremmana, Grosseto, Follone. Uno dei pochi gruppi. Quanti gruppi c'era all'epoca da quelle parti? Voi? Noi e basta, penso. Però c'era un precedente super illustre, perché c'era nel 7 pollici degli Stato di Polizia, l'indirizzo dietro era di un tipo di Follonica, che non conosceva nessuno, nessuno sapeva chi era. Forse era tipo un indirizzo di una nonna. Cioè di una, ci sta. Però noi ci facevamo vanto, cioè, di essere, cioè, del posto, cioè, degli Stato. Ma quanti, di Polizia. Cioè, com'era vivere a metà degli anni 90 a Follonica, nella Maremma? Non lo so, perché io vivevo a Firenze. In quegli anni lì? In quegli anni là stavo già a Firenze. Ah, stavi già a Firenze. Sì, sì, sì. Io stavo già a Firenze, però gli altri stavano tutti giù. Però prima stavi a Follonica. Fino a 18 anni, com'era vivere fino a... Truce, penso come ora. Sì. Penso quelli ci stanno ora è truce uguale. Forse peggio, perché magari ora con internet... Cioè, forse ora è peggio, dico, perché magari ora con internet sai quello che c'è fuori... Mentre prima non lo sapevi, vivevi in periferia. Però poi, sì, però ora c'è il vantaggio che... Se si può chiamare vantaggio, che scopri un sacco di robe anche dal punto di vista musicale, c'hai una facilità di accesso, ovviamente. Certo, grazie a internet. Molto... Però all'epoca io ho avuto la fortuna, c'avevo un fratello più grande che stava a Bologna, La Portland d'Italia. Tra i fini anni 80 e i primi anni 90. Quindi insomma, un po' di fervore. E anche da un punto di vista musicale, che tipo a volte chiedevo a lui un disco, ma mi porti il disco dei Fugazzi? E io avevo 2-3 settimane di attesa, perché lui scendeva ogni 2-3 settimane a aspettare questo disco, e me lo godevo in una maniera già prima, era già uno sbalamento. E quando arrivava era proprio il disco più bello del mondo. E se faceva schifo era una delusione totale, che per un mese prima avevo avuto. Un mese di trepidazione, arriva il disco, madonna, è merda. Non è schifo. E invece com'era la situazione? Avete suonato in zona Follonica, maremmana? Sì, io avevo anche un gruppo prima di entrare nel circuito, cioè dell'hardcore mentale. Sì, no, si suonava, sì, magari però più d'estate, feste, sagre, cioè robe un po' tristi, insomma. E suonavate alla sagra alla festa dell'unità di Follonica, sì, tipo nel 92? No, io la festa dell'unità non ci ho mai suonato, non ci ho mai voluto suonare. Bravissimo. Ma non perché all'epoca ero già illuminato, però c'era qualcosa che non mi tornava. Quindi tutto ciò che era politico io non ci volevo suonare. Cioè che era politico istituzionale? Che era politico istituzionale, sì. Certo. Quindi magari feste private, oppure sagre. E invece c'è mai stato un posto occupato dalle tue parti? A Grosseto, il Tiburzi, C-S-O-A Tiburzi. C-S-O-A Tiburzi? Se non mi sbaglio, tra il 92 e il 93, o tra il 93, no, forse tra il 93 e il 94, a cavallo durò 6 mesi, fu un'esperienza un po' strana. Io c'ero anche io all'inizio, però io stando qua andavo soltanto fine settimana. Però i giorni c'era dell'occupazione, c'ero anch'io. Eravate tutti ragazzi, c'erano ragazzi. C'era il posto di provincia occupato, il posto strano, cioè ci finì di tutto. I pazzi, i casi umani della zona. Dai casi umani, dagli sgabbiati a il prete alternativo, il tipo era assessore di Rifondazione Comunista, quindi scazzi tremendi dentro. Sì, sì, cioè non seguire quella linea, seguire quell'altra, vaffanculo lui, vaffanculo lui. Ma perché c'era ovviamente il vaffanculo con un prete che ci potevi fare, anche se era a suo dire illuminato, però c'era questa situazione un po' strana, molto di provincia, però è stato anche bello, perché magari tanta gente che appunto all'epoca non c'era internet, che non c'era niente di che, aveva comunque accesso ha avuto attraverso il Tiburzi accesso a musica diversa o a qualche iniziativa magari più o meno valida, no? Giovani che avevano magari 16 anni, 17, che invece andare al bowling o in discoteca o lì in zona a farsi le pere. Che quella era un po' l'inclinazione. La cattiva inclinazione. Era la cattiva inclinazione, cioè, di quella zona. Ora non so se. Penso che sia stata superata ad altre droghe. Sì. Sì, ora c'è Facebook. Sono gli smartphone. No, infatti. La droga è questa. Quindi ora ci sentiamo di cattiva inclinazione. Vai. Siamo tornati in diretta sulla Revancia, ci siamo sentiti due pezzi registrati più o meno in che anno? 96? Sì, fine 96, mi sa. Questi sono pezzi che dovevano uscire. Il primo era anche il primo demo nostro, questa è una riedizione. E erano pezzi che dovevano andare su un 7 pollici, su un non 7 pollici nostro, perché noi abbiamo fatto un demo e più svariate compilation in vinile, e questo doveva essere il 7 pollici nostro, e doveva essere prodotto, cioè, da un'etichetta. Poi ci sono stati dei problemi non è mai uscito qualcosa di di mele cotogne, insomma. non è mai uscito, e è uscito quando il gruppo si era già sciolto, per volere di Alberto di Sottosopra, di Follonica, che lui disse: ma perché c'hai quel materiale bello così, cioè, e lui fece un CD E ve lo fece uscire, sì, con tutti i pezzi inediti più quelli sparsi, cioè varie compilation. E noi ci siamo sentiti La mia linea è puro. Ok, adesso parliamo del gruppo che sentiremo dopo, che è sempre un altro tuo gruppo. Tutta un'altra roba mia, sì. All'inizio facciamo tutta roba tua, e poi dopo almeno ci si leva il dente. Bravo. Dai, soprattutto perché sei qui, così almeno così posso far vedere che sono più di 20 anni, certo, facendo la musica, certo, di merda, certo, in giro. Certo. Sì, ci sono, sta. Sono 26 anni che faccio la musica di merda. Il primo concerto l'ho fatto nel 91. E dove? A Massa Marittima, che è un posto lì vicino a Follonica. C'era un clubettino piccolino dove dei nostri amici un po' più grandi di noi organizzavano già le cose, così... Nel 90-91 c'era tipo Ritmo Tribale, 99 Posse, Settore Auto, erano gruppi che giravano abbastanza. All'epoca. Sì, sì, ma invece lo spazio a Grosseto che dicevi prima, ci sono stati fatti qualche concerto? Sì, tanti sacco di concerti, io non mi ricordo, però poi ho preso la piega molto comunista, quindi io mi ricordo delle cose un po' tristi, tipo Banda Bassotti, o i gang quando erano veramente alla frutta. Ho saputo che ci sono ancora gang. Tra l'altro. Quindi pensa come erano già nel 93, secondo me stavamo alla frutta. Ok, quindi ci sentiremo dopo i Crepa, che sono un gruppo nato dalle scene di De Cattiva Inclinazione, sì, possiamo dire. Sì, erano tre quarti di De Cattiva Inclinazione. Ci fu un cambio di strumenti, uno andò a suonare una cosa piuttosto che l'altra, io non sapevo suonare niente, rimasi a suonare, a cantare. A suonare la voce. È un gruppo un pochino più bestia, mentre quell'altro era tipo hardcore, insomma stava dentro un certo genere, ben preciso, suonato anche bene, perché gli altri ce la suonavano bene, erano bravi. Noi eravamo un pochino più bestia, poi eravamo un po' presi con 15 anni di ritardo, ma si era entrati un po' dentro il crust, il power violence, quindi c'è le prime grindate, c'è le cose sporche. Sì, sì, blastate, cose. Sì. E i Crepa, cioè, durano un pochissimo, un anno e mezzo, ma super attività, due tour europei, un disco. Tour, tra l'altro mi ricordo, mi raccontavo qualche sketch in passato, tour uno con i DDI, no? Il primissimo, perché il disco uscì per la G-Punk di Mila nel 97, e i DDI andavano in tour Spagna-Portogallo e ci chiesero, cioè, di andare con loro. Non so se mi ricordo bene, mi dicesti tipo, siete partiti un monte di gente, sì, certo, come carovane. Come funzionava all'epoca? Un furgone e due macchine. Per due gruppi. C'era un gruppo, il gruppo nel furgone. No, noi eravamo quattro, i DDI erano tanti, perché era il periodo finale, erano tutti, tranne la batteria, erano doppia tutto voce, doppio. Doppie chitarre, doppi bassi. C'era Lenin dello Scrudos quando stava a Pavia, c'era Dimitri. Dimitri o Lenin, amico di Mila, è stato un mese. Un mese più. Ma tra l'altro l'ho conosciuto Lenin. Cioè, penso sia lui, non so quanti Lenin ci sono che stanno a Berlino. È lui. Qualche anno fa, l'ultima volta l'ho visto, 10 anni fa, stava a Lipsia, però può darsi che sta a Berlino. Ma tipo dread, piercing qui. Quando l'ho conosciuto tantissimi anni fa, sì, l'ultima volta che l'ho visto non aveva i piercing alle labbra, sì, non aveva i dread, però aveva i capelli lunghi, moro, scuro. Ma mi sa che è lui, c'è una figlia. Sì, è lui. Sì, è Lenin, è lui per forza. E suonava nello Scrudos lui? Sì, lui era dello Scrudos. Non mi ricordo, lui venne in Europa con il tour dello Scrudos. E ci rimase. Perché non poteva uscire dagli Stati Uniti, perché lui era, all'epoca era... poteva risiedere, ma non poteva, perché era comunque un cittadino messicano. E quindi lui sapeva già che non poteva rientrare. E quindi disse, vabbè, siamo due mesi da Mila, sì, poi vengo mesi, a trovarti. Poi due mesi mi sa che diventarono due o tre, insomma Mila era un po'... però è un tipo simpaticissimo, è veramente. E qualche sketch divertente, alla fine quando uno va in tour gli sketch divertenti succedono ogni giorno. Tanti milioni, e come sai bene te, quelle cose che magari per me sono divertenti perché l'ho vissuta, certo. E ci sei andato in loop, ma cioè, per te non vogliono dire sì, niente. Sì, ma fu questo tour o un altro tour, mi ricordo, mi raccontasti, o forse era piaciuta, di questo posto con i tappeti... Che... No, quello era con i Grobbelaar. Era con i Grobbelaar. Era con i Grobbelaar a Zurigo, dove era la festa finale dello squat che veniva abbandonato. Nemmeno, non venivano nemmeno sgombrati, lo abbandonavano per manifesta impossibilità di viverci. E con una paccata di gruppi americani, Detestation, tutto il crust. E noi fummo sorteggiati per primi a suonare... culo immenso, i primi voleva di a mezzanotte, però certo. Poi dopo c'è tipo te godi la serata, poi... E però il tipo che ci faceva vedere dove andare a dormire ci disse: mi raccomando, a questo piano non calpestare i tappeti. Forse, ma cazzo, cioè, lo vuole abbandonare il posto, non è che sarà per la pulizia, no, perché sotto non c'era il pavimento. Giusto, mettiamoci dei tappeti, non lasciamo senza pavimento. Non c'era il pavimento, però il piano era tutto un tappeto, quindi non sapevi dove cazzo sdraiarti, insomma trovavamo ospitalità, cioè, da un'altra parte, fortunatamente. Va bene, adesso ci sentiamo i Crepa, due tracce, diciamole prima. La prima è Crepa de Crepa. Crepa, cioè Crepa 1, 2 e 3, c'era tre versioni diverse, non so qual è, comunque. E poi Voglio ancora vita. Vai. No, Vivendo aspramente, si era detto. No, Vivendo aspramente. Vivendo aspramente, vediamo se l'ho messa giusta. Traccia 7, che botta c'ho? Vivendo aspramente. Vai. Vediamo se abbiamo fatto bene, ma mi sa no, perché si è detto di mettere mente libera. Va bene, guarda. Sì, vai. Mente non libera in corpo non libero. Ok. E di cosa parlavano i testi? Penso li scrivessi te. Sì, abbastanza introspettivi. Sì, filone italiano... No, non emo, dico, è una negazione così o roba più criptica? No, un pochino più criptica. Magari c'era il significato, ma ci dovevi andare un pochino a parare, insomma. Cioè, no, non manifestatamente politici, diciamo. Ok, però c'era un minimo di retorica su quello che ti circondava, insomma. Sì, sì, cioè, sì, chiaramente. Ok, mente non libera. Erano i Crepa, mente non libera, Vivendo aspramente, come mi dicevi prima a microfoni spenti, è un titolo di una canzone. Il titolo l'avevo preso dal disco dei Lo Scrudus Split con le Spit Boy, mi sa, che era Vivendo aspramente. E mi piacque cioè è la frase. Come fanno gli affluenti, tutti, molte delle loro canzoni sono traduzioni italiane di... Questo qui era tradotto solo il titolo. Sì, poi certo. Era un po' sulla vita agra di periferia che si viveva da queste parti. Ok, prima raccontavi, mi stavi raccontando uno sketch, magari i nostri ascoltatori di quando avete suonato a Lisbona. Una gag bellissima del primo tour dei Crepa, che andammo in tour con i DDI, Spagna e Portogallo, e a Lisbona dentro uno squat che non avevano l'acqua, ma la rubavano da una villa accanto, e quindi ci dissero che in bagno, secondo loro, era meglio cagare nella vasca. E io dissi, ma scusa, tanto c'è lo scarico dell'acqua, cioè del cesso, poi quindi ci butto l'acqua, e loro erano convinti che era meglio cagare nella vasca, poi toglierla e andarla a buttare fuori. E no, quelle cose strane che ti capitano in tour, e poi non hai nemmeno il coraggio oppure la forza di dire, ma di chiedergli come mai. Ma perché? Vabbè, loro fanno così, e sarà usanza loro. Tradizione locale è quella di cagare nelle vasche. E rimaniamo in questi anni più o meno, no? Fine degli anni 90. Qui siamo 98. Sì. Cosa, o anche un po' prima, mettiamo i By All Means, sono stati un gruppo topico dell'hardcore anni 90. Sì. Io non li ho mai visti perché si sono sciolti e ci avevo 14 anni, penso. Molto. È un bel gruppo, il gruppo politicizzato, però non politicizzato male, erano veramente belli testi, bravi, poi secondo me avevano dal vivo erano veramente devastanti. E poi c'era il Melo a cantare, che secondo me è stato sempre stato uno dei pochissimi con una voce che era ben riconoscibile e che ti faceva... ti ricordava subito lui? No, ti faceva, cioè ti valorizzava un gruppo, cioè mentre tanti di noi cioè urlavamo e basta, sì. Era più l'urgenza della cosa. Lui era veramente bravo. Quindi cioè, gli altri anche bravissimi, cioè un gran bel gruppo, e poi stavano alla Scintilla, che era un po' lo snodo di tutto il punk hardcore italiano, cioè di quegli anni là, passava tutto da lì. Sì, fino al 2005 più o meno è stato, cioè nel 2005-2006 mi ricordo i primi concerti che mi sono visto io in Scintilla, c'era sempre quei 3-4 festival all'anno in cui c'era gente giapponese, americana a suonare, infatti anche l'ultimo concerto che avete fatto poi, cioè che avete fatto, che hanno fatto con i Disprezzo, è stato lì. E tante altre cose. Sì, io una volta feci il calcolo, dal 95 al 2002 ci ho suonato 26 volte. Boia. Con 6 gruppi diversi. Ma, però è perché era uno dice, cazzo, cioè, ci suonavi tantissimo, ma non ero solo io. Erano tutti. Era un posto dove poi anche chi organizzava, cioè lì arrivavano tutti i gruppi, quindi o li andavi a vedere o ci suonavi. Sì. Quindi almeno tipo 4-5 volte l'anno andavi a Modena o a suonare, cioè 4-5 volte, 4 volte l'anno. Cioè diciamo 3 volte qua, 3 a suonare. E poi andavo almeno. Altre 5 a vedere concerti. Altre 10. 10-15 anche, a volte c'erano tipo, a volte non potevi andare tutti fine settimana, quindi saltavi perché oggi c'era gli Easy Rest Gone, tra 2 settimane c'era i Catharsis, però non c'avevi i soldi per andare. E sceglievi gli Easy Rest Gone. Io questi due l'ho scelti entrambi. Ok. Però cos'è che ti sei perso? Tanti, penso. Però ora, mi ricordo solo quelli che non mi sono perso. Ok, quindi ci sentiamo ai By All Means, L'Uomo di Plastica. Questi erano i By All Means con l'uomo di plastica, e a microfoni spenti stavamo parlando di una compilation che te, Matteo, dicevi era un po' lo spartiacque, il collante dell'epoca. Fece un po' sì, una compilation in 7 pollici fatta da l'Apple Queens del Sardo, che c'eravamo sei gruppi, mi sembra, tre su ogni lato: Frammenti, Sotto Pressione, Cattiva Inclinazione, Affluente, Bocca Chiusa e ora non mi ricordo quali sono gli altri due, che fu stampata subito, mi sa, in 500 copie, finite subito. Poi altre 500 copie e poi altre 500 copie ancora, cioè tutti in vinile diversi. Il primo era rosso, poi blu e poi dopo nero. E creò un po' un legame tra quei gruppi che facevano parte di una scena, anche se vuoi è politica, cioè che era comunque basata su un'affinità umana, su un'affinità di intenti, di ideologie. Non c'entrava niente la musica. Poi. Sì. Poi all'epoca magari eravamo tutti giovani in quel momento lì, e eravamo tutti quanti hardcore, però era più quello che c'era intorno. Infatti io, nelle amicizie che ho da quegli anni là vengono, cioè da quegli anni lì, insomma, cioè dal 96, 97, rimaste, molte di queste persone rimaste, sì, perché c'era veramente un legame. E quei gruppi là suonavano tanto poi in giro, pre internet, pre Facebook. Sì, ma com'era organizzare i tour? Telefonate, lettere. Se dovevi parlare con uno in Spagna, non è che lo chiamavi e gli dicevi hola. Anche, però, prima magari per lettera. Sì, e come facevi a sapere che c'era quello che organizzava? Lì c'era già un giro grosso, tipo io, magari quando ne uscimmo con i Crepa per la G-Punk, già Mila aveva già un giro che gli veniva da 10 anni di distribuzione, di giri, cioè veramente fisici. Magari era stato all'estero a vedere, a farsi le vacanze e andava a vedere concerti, così. Sì, conosceva quello. Quindi legame diretto. Poi magari c'era già chi aveva una mail. Sì. Inizio 2000, fine anni 90, qualcuno aveva una mail, le comunicazioni erano un po' più leggere, snella. Però prima c'era l'amicizia, il contatto umano, e poi dopo... Certo. Cioè, immagino che magari tutte le volte in cui andavi a suonare conoscevi già chi ti organizzava il concerto, più o meno, sì, mentre adesso non sai nemmeno chi, spesso nemmeno chi che è. Faccia c'ha, e a volte non si presentano nemmeno, sì, al concerto e fanno finta di niente, te non sai chi, ma chi è quello che... è successo. Sì, io mi ricordo che sempre per questo tour spagnolo, noi addirittura la prima data era incerta quando siamo partiti. Era forse a Bilbao, e arrivammo di notte, la notte prima, e non mi ricordo se Mila o chi altro, andammo a un telefono pubblico, chiaramente non c'erano i cellulari, e chiamammo a casa il tipo, che ci trattò un po' con sdegno, quasi, non c'era data, non c'era niente, non ci ospitò, non ci fece un cazzo, quindi succedevano anche queste cose, prendevi i pacchi, veri? Subito, insomma. Prima data pacco. Poi il resto... Però era tipo marzo, aprile, Spagna, tende, quindi che ci avevamo portato tutto, certo, da buoni italiani. Macchina del caffè, certo. E pedalare. Adesso ci sentiamo invece un altro pezzo di un gruppo di quegli anni lì, dei Frammenti, che sono stati un gruppo... Cardine. Sì. Cardine dell'epoca. Sono stati un gruppo cardine, erano veramente bravi, cioè avevano stile, erano amici personalmente, erano dei tipi molto in gamba. Ed erano sempre anche loro di su, torinesi. E si sente che è l'hardcore torinese, che c'è una matrice bella spessa, insomma. Adesso ci sentiamo Un altro inverno, dei Frammenti. A chiave, da troppo tempo chiusi a chiave. Questi erano i frammenti di Torino, Giro Paso, Giro Pasio comunque, e anche loro hanno suonato penso ovunque in Italia. Loro suonavano tantissimo, anche qualche tour all'estero, erano sempre molto molto disponibili. Loro suonarono anche a un concerto che organizzo io a Scandicci. Scandicci dove? Scandicci qua, Scandicci, Sì, no, ma Scandicci. anche il luogo Si fisico. chiamava Bar H, la baracca, era Bar H, era un posto a metà fra il concesso dal comune, però dovevano andare via, loro non erano andati via, quindi un po' in sgombro. Un po' tra l'occupato e non, diciamo. E fu una serata pazzesca. Chi è di quegli che ha una certa età se la ricorda, perché dopo il concerto suonammo Noi Cattiva Inclinazione, Frammenti, ADDI o Easy Coitz, non mi ricordo bene chi. E dopo, alla fine, cioè, del concerto, fummo assediati dagli sbirri che arrivarono in tenuta sommossa e ci tennero tutta la notte. Picchiarono una marea di gente, spararono, ci fu una cosa veramente grossa. Sì, e nessuno si fece male, nessuno. Furono 4-5 arresti che poi hanno avuto processi dopo 2, 3, 4, 5 anni. Qualcuno ci ha si è beccato un anno di condizionale. Nel momento topico, cioè della nottata, addirittura uno degli arrestati l'avevano ammanettato a un palo fuori e lo picchiavano. Ogni tanto gli davano qualche Con sberla. voi lì davanti a Con noi vedere, dentro, chiusi a de dentro. chiusi Chiusi dentro. dentro dicendo: ah, cioè, se non venite fuori, cioè, si ammazza. Ma delle cose veramente un po' fuori dal mondo, pure per quegli anni là, ovviamente. Poi Sì. chi riuscì a scappare dai campi, cioè dopo la prima carica, chi si rinchiuse dentro, chi scappò dai campi, riuscì a raggiungere un telefono e verso la tarda mattinata arrivò un giornalista di Controradio e un assessore, cioè di Rifondazione. E con loro, noi ultimi assediati dentro, gli ultimi 30-40, uscimmo scortati da loro, ma era già l'alba, era già giorno e si erano affacciati tutti quegli infami dei palazzi intorno Certo. che ne avevano battuto ciglio, ma avevano sparato, capito? Quindi Eh c'era sì. e poi c'era tipo 7-8 camionette, Un una bordello. cosa grossa. Minchia. E noi fummo scortati uno a uno alle nostre macchine, perché non ci fidavamo. Quando loro ci dissero: no, potete uscire se è trattato noi. Sì, appena ve ne andate, noi si esce, cioè ci caricano tutti dentro. Quindi mi ricordo questa cosa che ci scortarono, e tutti 20-30 andavamo alla macchina di quello, alla macchina di quell'altro, alla macchina dell'altro. E quando noi arrivavamo in macchina e tornammo a casa, insomma, fu una bella storia. La liberazione fu. Madonna, E che fu una cosa conseguenze, cioè, incredibile. poi il posto fu sgomberato praticamente, Il posto immagino, il giorno dopo, cioè il sì, giorno o stesso. comunque gli tolsero, cioè, la possibilità, cioè, di fare qualsiasi cosa. Dopo un paio di giorni facemmo un paio di presidi, uno sotto il tribunale, uno a Piazza dei Ciompi, al Mercatino delle Pulci Che non c'è Vecchie, più. che era un bel luogo di aggregazione Sì, be sì, sì, è sì. bestiale all'epoca lì, anche perché c'era l'Arco San Pierino accanto, insomma, come insegnavano i Facoff, era un posto obbligatorio cioè, per andare a mangiare o per trovarsi. E insomma, cioè andammo sui giornali, ovviamente, cioè dopo poi ovviamente morì tutto, perché cominciarono: i soliti anarco squat, bestia, gli anarco insurrezionalisti Sì, stanno sì, sì. dietro, tutte queste cose. So, i Quindi territori hanno fatto bene a fare quello che hanno sì, fatto. poi era il 96, insomma, quindi erano anni tosti. C'era l'inchiesta Marini, contro gli anarchici in tutta Italia. Erano anni pesanti anche da un Sì, punto di sì, vista sì, sì. politico. Sì, cioè, se venivi etichettato come anarchico, Non ti aiutava nessuno, No, insomma, no. O non è che ora vieni, anzi, no, tutt'altro. Cioè, la situazione è rimasta la stessa più o meno, però magari c'era un'attenzione mediatica diversa. Cioè, ora è più spostata magari sul black bloc, mentre all'epoca il. era molto fascista. All'epoca si apriva il telegiornale, cioè, di Canale 5. Prima notizia, trovata cassa con dinamite a casa di quel. Poi era Nome, cognome, immagini. nome, cognome, immagini, capito? Cioè, te ti facevano quello che volevano loro, cioè, lo sapevano benissimo che non ti avrebbero arrestato mai, cioè, ti avrebbero arrestato magari fino al processo e ti Certo. avrebbero rovinato la vita uguale, magari Sì, per sì, 6 mesi, sì. 8, un anno, cioè, dove sta in galera. Però era un po' di fatti terra bruciata intorno. Sì, certo. Penso che anche oggi c'è. Sì, sì, anche oggi funziona così. Cioè, ti arrestano preventivamente. Poi soprattutto dividere i buoni con i cattivi, cioè fare le divisioni interne. No? Sì, sì, sì, sì. Infatti in quegli anni là, metà anni 90, c'era il movimento per la legalizzazione degli spazi occupati. Anche lì c'è grandi riunioni, grandi ragionamenti in tutta Italia. I posti che erano a favore, i posti che erano al contrario. Però c'era un fermento umano, cioè di faccia, come direbbe il vecchio, in ghigna, insomma. Sì. Cioè, ci si diceva le cose in ghigna che ti spostavi, andavi a Torino, andavi a Udine, perché c'era la riunione per le legalizzazioni laggiù. Mega assemblee duravano 7-8, cioè fino a che non siamo tutti d'accordo. Quindi, e non eravamo mai. Nessuno mai era. Certo. E quindi, tornando allo spostarci, adesso andiamo a Roma. Al metallo della morte. E ci sentiamo un gruppo storico che si è sciolto anni fa, ma che si è riformato ogni tanto. A volte ha rifatto. Sì, mi ricordo, io li vidi quando suonarono, quando Boris organizzò i Wolf Brigade all'Emerson, suonarono loro dopo i Wolf Brigade. Alla zitta però. Alla zitta. Perché c'erano tutti. In realtà Boris me lo disse prima, perché io quella sera andai a mettere la musica tra gruppo e gruppo, cose a caso, e poi Boris mi presentò, tipo, visto che sei super professionale, certo, come sempre, certo, ineccepibile e tutto, mi presentò questa scaletta con tutti... Polacco, si può dire il termine tecnico. E poi spendiamo due parole anche su Boris tra un po', no? Tre o quattro gruppi parliamo, sì, anche sì. Parliamo anche di Boris, che inviterò prima o poi. E niente, mi presentò questa scaletta in cui c'era tutti i gruppi, no? E poi Wolf Brigade scritto gigante e poi sotto scritto piccolo Concrete. Dissi, ah, sono anche Concrete. Sì, però non lo devi dire a nessuno. E va bene, stetti zitto. Però tutta la gente che venne, poi la sera scoprì che non c'erano Concrete e diverse persone erano entusiaste di questa cosa. Me li ribeccai anch'io, sì, dopo tanti anni non sapevo niente. Cioè, me lo disse, mi sa, Greg, oppure qualcuno di loro poco prima. Sì, sì, sì, sì, sì. Ok, questa è... Concrete anche loro sull'ambito meteorologico, e poi piove, prima abbiamo sentito un altro inverno. Comunque è ricorrente questa cosa. Secondo me questo è il pezzo più bello che abbiano mai fatto, di un 7 pollici split con gli Antisgammo. Mitici Antisgammo. Questo pezzo è il primo, mi sa, dove cantano in italiano. Cioè la prima parte in inglese e poi dopo in italiano. Ok, questi sono i Concrete e poi piove. Thank you. Questi erano i Concrete da Roma e non sono hardcore nelle sonorità, tra virgolette, ma nell'attitudine. Sì, ma a Roma c'era una scena particolare, cioè la scena di Roma era... I romani non erano gruppi strani, insomma, più sperimentali anche, belli. E poi dopo dai Concrete sono nati altri gruppi... Sì, ora... Ci sono ancora i Sinon Sed e Is, sì, credo, sì. Credo suonino ancora. Io e c'è il cantante e il chitarrista dei Concrete, se c'è non i mi due chitarristi. I due chitarristi? I due chitarristi, però a volte suona solo uno, perché uno mi sa che non sta più a Roma e quindi a volte non c'è. I due chitarristi e il cantante dei Sinon Sed e Is era il bassista dei Concrete. E chi ci suonava la batteria nei Concrete? Il Capoccia c'era, Il Capoccia. Poi Vaticano 666, no, com'era il gruppo? Los Vaticanos. Los Vaticanos. Il sangue, milioni di gruppi. Che mi ricordo, tipo il secondo concerto che si fece di DeLorean, c'era anche lui al Panico, e si faceva all'epoca la cover di Napalm Death, Scam, e venne da me, vabbè, comunque meno male lo conosco, venne a me e mi fa, avete fatta bene, ci ho suonato 6 volte con Napalm Death. Mi sa che bene così non l'hanno mai fatto. Una cosa del genere. E vabbè, cioè ora ci spostiamo, andiamo a sentire un altro gruppo. I Bocca Chiusa, si era detto, no? Altro gruppo di quell'epoca, di mezzi anni 90. Gran bel gruppo, poi sono comunque amici, quindi ora che posso... Verrebbe da dire un sacco di cose, comunque... Erano un gruppo che suonavano tanto, erano validi, hardcore tirato, però testi bellissimi, anche con una vena melodica, bravi. Suonarono anche a Firenze almeno una volta, alla villa. Poi dopo parliamo un po' di due parole sulla villa, dobbiamo spenderle. Sì, sì. Ok, adesso ci sentiamo i Bocca Chiusa. Quindi dopo Boris e Villa. Insieme, più o meno. Sì, così in quella cosa si racchiude. Si racchiude un po' di... Va bene, dai. Sarà contento Boris. Sentervi il Bocca Chiusa, go. Questi erano i Bocca Chiusa, da Como con Centerville. Adesso quello che dicevamo prima, cioè facciamo il collegamento, come fanno quelli bravi in televisione. No, sì, perché sì. Luca, il cantante e chitarrista di Bocca Chiusa, registrò il nostro primo demo dei Grobbelaar alla villa, occupata di Coverciano. E noi registrammo fino a tarda notte, e la mattina dopo fu sgombrata. Quindi voi siete andati via, e dopo tipo 5 ore l'hanno sgomberato. Andati via, e volevamo anche lasciare lì tutta la strumentazione perché eravamo stanchi. Così Luca disse: no, mi sento più tranquillo se la portiamo a casa in macchina. E fu una botta di culo. Sì. E poi vi siete svegliati la mattina, qualcuno ha chiamato stanno sgombrando la villa. Quindi infatti sul demo c'era anche questa cosa. Sì. E che posto era la villa? Comunque era bello sia fisicamente che anche come gente, tranquillo. Io ero soltanto un frequentatore, andavo a proporre serate, concerti, si poteva fare quasi tutto, tranne nell'ultimo periodo si era un po' formato una specie di due gruppi separati dentro lo stesso posto, quelli del piano di sotto i punk, quelli del piano di sopra erano gli artisti dell'accademia. E a volte capitava anche, c'era un bordello di gente perché c'era un concerto punk sotto e un altro sopra. Minchia. E invece che altri posti, cioè ho sentito parlare, ne so, dei Bubusette, di posti. Bubusette era una casa. Era una casa occupata? Era una casa in Ponte alle Mosse dove ti davano spazio, se eri amico, cioè ti davano spazio per organizzare le cose. Io ci ho visto Drop Dead, Los Crudos, gli stacchi, Disrupt, cioè era lì proprio il meglio del crust dell'epoca, insomma. E che organizzava questi concerti? Un ragazzo dei Fuck Off che si chiama Roland, che non vive più qua da tanti anni, e lui aveva anche una distribuzione. Lui era molto, lui era il crust. Era il crust, no, di Firenze. Non nell'abbigliamento, anzi, sì. Però era veramente il crust. Cioè, c'era una gag, cioè, che raccontavano sempre i suoi amici, dove lui sopra di lui ci vivevano i Dianetics. E lui metteva crust a palla e questi andavano a bussargli gentilissimi per la centesima volta, a fare: scusa, puoi abbassare? No. Questa era una gag che girava fra loro, tutti amici, e poi dopo anni: ma cos'è questa cosa? E no, luce Dianetics sopra, capito? Va bene, adesso ci sentiamo i Grobbelaar, che sono un tuo gruppo, sì. Dove, come ti hai detto prima, dove cantavi e suonavi. Suonavo la chitarra e poi c'era Claudio alla batteria. Per un 2-3 anni abbiamo suonato come duo, poi entrò Boris al basso, e questo è della fase con Boris. E ci sentiamo i Demolitori di Macchine, Punks Not Dread. I Grobbelaar erano famosi, facciamo un incipit un attimo, i Grobbelaar erano più famosi per essere dei rompicazzo che per la musica. Suonavamo tantissimo in quella scena vera che c'era all'epoca, però noi facevamo dei ragionamenti lunghissimi di presentazione dei pezzi, e poi il pezzo durava 50 secondi, 30 secondi. No, noi, te? Io, Claudio e Boris, cioè, parlavamo tutti. Ah, ok. E cantavamo tutti. Ma a dibattito? No, a volte è successo, magari, cioè, tu dicevi una cosa e uno diceva: no, io, per me no, non è vero, l'altra volta mi hai detto così, oppure no, io sono d'accordo. Quindi poteva anche diventare ancora e più cosa, lungo. E cosa dicevate a proposito? Però mai qualcuno ti diceva: sona... c'era attenzione, magari c'era qualcuno che dicevi una cazzata, però mai che volevano soltanto la musica. E tipo di questi due pezzi qui, i Demolitori di Macchine e Punks Not Dread, come li presenteresti ora? I Demolitori di Macchine parlava ovviamente, cioè, del movimento luddista, quindi che comunque era inserito, però continua imperterrito nei tuoi ragionamenti e nelle mie corde, sì. E Punks Not Dread invece era una sterile polemica che facevamo perché noi facevamo anche i pezzi sulla scena dentro, certo. Quello non ci piaceva dentro la scena, e criticava un po' il fashion punk, no? Che dovevi avere quell'abbigliamento, dovevi avere quelle scarpe, i dread o no, e che, per essere accreditato come un vero crust, un vero punk. E che in quegli anni là, ormai si parla di 2000, 2001, 2002, cominciava a diventare una deriva molto più importante, cioè di quello invece che erano i testi, quello c'hai capito a dire, insomma. Sì, e di quello che facevi poi anche nella vita normale, perché magari venivi al concerto vestito da crust, E poi a casa tua te ne stavi vestito normale, andavi al lavoro vestito normale. Non saresti mai andato a confonderti con gli squatter, se non il sabato sera per un concerto. Però presentami tipo ora, nel 2001 in Scintilla, stai per suonare con i Grobelar i demolitori di macchine. Non ti presenterei niente, perché io poi dopo i Grobelar non ho più avuto un microfono davanti per scelta, non ho più cantato perché mi sono chiuso in me stesso, non ho più detto niente. Quello che avevo da dire l'ho detto tutto. E troppo forse, no? Qualcuno direbbe, poi potevi stare zitto pure prima. No, mai troppo. Va bene, sentiamoci i demolitori di macchine e Punks Not Dread. Erano i Grobelar, che come dicevamo prima erano composti da te, da Boris e da Claudino, alla batteria era si è trasferito a Milano, e è lui, no? Sì, sì. Ah, ok, l'ho conosciuto anch'io, quindi prima di fare figure di merda. E poi, dopo questo gruppo qui, il gruppo che hai fatto dopo sono stati Giuda. O c'è stato qualcosa nel mezzo? No, hardcore, gruppi hardcore sì. Io sì, già nella fine dei Grobber avevo già la quinta. I primi cose. Primissimi la quinta, sì. E ci sono ancora, quindi pensa un po'. Sono passati di anni. Il primo concerto della quinta a fine 2003, quindi sono quasi 14 anni. Dove l'avete fatto? E ora stiamo per far uscire il quarto disco, quindi continuiamo, anche se non le compra nessuno, noi si stampa. Giustissimo così. E il primo concerto dove l'avete fatto? Il primo concerto l'abbiamo fatto in una casa cantoniera occupata, giù in Maremma, dove all'epoca mi ero trasferito. Prima di ritornare a Firenze? Prima di tornare in zona Firenze, sì. Finita l'università, sei tornato? No, non l'avevo finita, l'ho finita, stavo ancora giù, ma l'università che c'entra? Che c'entra? Diciamo per... Capitolo triste. Sì, no, io per i primi anni 2000, per 3 o 4 anni mi sono ritrasferito in Maremma e poi invece sono tornato, non proprio a Firenze, però comunque, in zona. E niente, quindi dicevamo appunto, il gruppo hardcore che è nato dopo lo scioglimento dei Grobelar sono stati Giuda. Sì, un gruppo per volere di Mila e Boris, loro avevano questa idea, volevano fare un gruppo, un gruppo di beat o una cosa del genere, e io mi ho detto disponibile, anche stavamo tutti molto lontani, perché uno stava a Bologna, uno stava a Firenze, io stavo in Maremma, e ci trovammo per svariate prove, poi entrò Gabriele, Poi dopo entrò a Margherita, quindi ci è diventato un quintetto. E... sì, praticamente era un misto tra Disprezzo, Grobelar e un cantante di Bologna. E un cantante. E uno dei cantanti di DDI. Sì. No? Sì. E... sì, io sono, ci sono nei primi due dischi, poi loro hanno fatto anche un terzo disco. Ora non suonano più? Penso di no, no, sono già a svariati anni si sono sciolti. E con questo gruppo qui ha fatto, cioè gli altri gruppi precedenti ha suonato più o meno ovunque in Italia, all'estero, eccetera, mentre con i Giuda hai partecipato, ha preso parte anche a una spedizione americana. Il primo tour americano, sì. I Giuda ne hanno fatti due poi, sì, hanno fatto un altro quando io non c'ero più. Sì, nel 2008 o nel 2009. Ed è stato anche il primo tour americano per quasi tutti i componenti del gruppo. Per noi tutti era il primo tour, sì. Sì, poi dopo anche Mila, anche Coppa sono tornati, sì. Cioè Coppa è tornato anche con altri gruppi. Credo tanto, sì. Mila non so addirittura se per certi periodi vive in America. Sì, ora mi dicevano di no, come si chiama, Giacomo, quel batterista, un tipo di Milano che ora sta in America. Che non si è provato a andare in America, però per motivi che non so... dovrebbe stare in Italia, non lo so, comunque sì. Sì, comunque poi loro ci sono tornati tanto, insomma. Sì, sì, sia come per suonare che per cazzi loro. Quella lì era la prima volta per tutti, sì. E com'è stata l'esperienza? Bella, ma stancante. Sì. Si può dire. Facemmo 35 date in 40 giorni. Ovviamente pensiamo come gruppo, se era un gruppo sconosciuto bisogna suonare tanto per rientrarci un minimo, con le spese, cioè un minimo delle spese, quindi facemmo non il costo, ma il costo da New York al giro dall'altra parte fino a ritornare a New York. Da New York sì, facemmo tutto il sud, poi tutta la costa ovest, poi tutto il nord, una puntata in Canada e ancora New York, quindi fu una bella ammazzata. Sì, che comunque le distanze sono siderali alcune, c'è cioè un pazzesco. Firenze-Bologna ti capita solo se suoni a San Francisco e Oakland, tipo. Sì, che per loro è quasi la stessa città. Sì, magari. Cioè a noi è successo di suonare a Richmond e a Oakland e l'unico giorno in cui siamo andati a vederci San Francisco, qualcosa è stato perché il giovedì suonavamo a Richmond, il venerdì a Oakland sono a 35 km, quindi ti puoi permettere. Il pomeriggio libero. Diciamo. Sì, e non c'avevi il pomeriggio o la mattina impiegata. Nel viaggio immagino che voi avete fatto un tour un po' più intelligente, cioè nel senso solo una costa. Sì, magari. Intelligente sotto un certo punto di vista, perché poi una volta finito a Las Vegas abbiamo riportato il furgone a Houston. Quindi cioè, è stato intelligente fino a un certo punto, perché poi comunque. Quelle 15 ore c'è. Sì, quindi il resto sono 2200 km, 40 ore di viaggio. Io mi ricordo una, oltre alle milioni di gag, una gag bellissima che mi disse un tipo, perché loro calcolavano tutto in distanze di macchina, quindi per loro 6 ore era una distanza media, cioè dove puoi andare a vedere un concerto e poi dopo torni. Bologna. 6 ore. Per noi andare a Bologna. Poi siccome loro non è che c'è, tranne New York, Chicago, magari qualche altra città enorme, ma non c'è il traffico, cioè tu scorri bene sempre. Quindi loro calcolano in ore di macchina. E io mi ricordo una volta in Texas, non mi ricordo dove, a un concerto, parlavo con un tipo, gli dissi, domani si suona ad Albuquerque. E questo mi fece, in 9 ore siete fuori dal Texas. E io già sgranai gli occhi. Poi di lì è una stronzata, 6 ore. Sì, ma 9 e 6, dio cane. Fa 15 ore, capito? E infatti dopo il concerto partimmo subito, facciamo un po' di ore di furgone, poi e qualche ora di letto in un motel, e poi dopo arriviamo il giorno dopo. Distanze siderali le affronti così, perché sennò non ne cavi le gambe. Sì, quella più lunga di tutte era 27 ore. Siamo però non avete suonato... Seattle, cioè, Minneapolis, con un giorno di day off. Day off. E niente, adesso c'è... Se qualcuno magari vuol dare un occhio, cioè, ho scritto una sorta di tour report, molto diverso dai tour report che si dice, che si scrive in genere. Così. Anche più personale, magari. Sì, dove non parlo quasi per niente di robe musicali. Però se andate sul sito Carmilla Online e mettete Touring USA, viene fuori il mio tour report su questa. Sì, tra l'altro molto carino, l'ho letto. Molto carino, poi comparato con il tour report di quel tour lì. riesce a risalire anche alcune cose. A qual è la verità? che sta sempre in mezzo. Certo, certo. Questi quindi sono i Giuda, Ubriaco di Illusioni, il primo di questo è il primo disco, vero? Questo è il primo disco, sì. Registrato in Olanda. Registrato ad Amsterdam. Ad Amsterdam, nello studio dove hanno registrato... Era in uno squat, in uno squat molto grande, il tipo era un ragazzo slavo che all'epoca era il turnista alla batteria degli MDC. Quando noi eravamo lì a registrare, lui ascoltava in continuazione 30 pezzi degli MDC. Per imparare. Che le doveva imparare, perché poi dopo andava a fare un tour lunghissimo di 2 mesi, 3 mesi. Ok, questi sono i Giuda, Ubriaco di Illusioni. Questi erano i Giuda, Ubriaco di Illusioni, e siamo a fine trasmissione. Salutiamo Matteo, che è venuto a trovarci stasera per parlarci di epoche passate, ma che però sono ancora vive in qualche modo, nelle forme, insomma, sono riprodotte, si sono evolute, eccetera, eccetera. Ricordo a tutti il gruppo, c'è cioè Matteo ora, sono nella quinta, e non fanno niente di quello che abbiamo sentito finora. Vero, vero. Ma che comunque sono un gruppo penso valido. Penso che un pezzo della quinta c'è tutta la mia discografia hardcore come minutaggio. Sì. E vi ricordo i classici... E io suono anche in un gruppo che si chiama Nel ventre della bestia. Suoni? Sì? Sì. È una specie di progetto che ogni tanto cioè, ci vede attivi con un po' di vattaggio e un po' di handlord, insomma. Sì. Ma quanti concerti abbiamo fatto? Alla fine 4 concerti abbiamo fatti. Forse 5. Uno all'Emerson e poi quei due di due. Si va via 3 giorni e poi finiva sempre, sì. Tipo venerdì, sabato niente, domenica Bologna. Quello è stato bello. E vabbè, vi ricordo dove potete trovare Radio Wombat, su wombat.noblogs.org, oppure su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, su Facebook, facebook.com/radio-wombat-firenze, oppure alla mail posta@wombat.net. Saluto i ragazzi della polveriera con fuoco alle polveri che hanno trasmesso un po' di ore prima di noi. E niente, Matteo, qualcosa da dire? Tipo ultimi aggiornamenti del telegiornale? Non abbiamo aggiornamenti. Ok, ciao, grazie. Vi saluto come sempre con gli Spaz, la revancia, go!